Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 18. Molte prostitute venivano a farsi curare al policlinico. Un giorno il professor Taylor, il direttore del reparto tubercolotici, mi chiese di andare in un appartamento tra Goethe e Dearborn Street per raccogliere un campione di saliva di una ragazza che stava troppo male per venire all'ospedale. Ci andai e scoprii che l'appartamento era abitato da un gruppo di prostitute lesbiche e tossicomani, le persone più miserabili ma ridotte delle ritte che avessi mai visto in vita mia. L'appartamento, situato in uno scantinato, può essere descritto solo con le parole di Oscar Wilde. Vi si facevano cose che i figli di Dio e i figli degli uomini non dovrebbero mai vedere. Le donne erano emaciate, decrepite, già vecchie nonostante la giovane età. Erano affette da sifilide e da tubercolosi. Avevano ulcere e foruncoli. Erano mezze cieche e zoppe. Pure, quando si truccavano e andavano a battere, riuscivano ancora ad attirare molti uomini. La casa era di una povertà estrema. Non c'era un solo oggetto nell'appartamento che potesse essere venduto o impegnato. Ciò nonostante, le 7 donne e i 3 uomini che l'occupavano non riuscivano mai a spendere meno di $25 al giorno. La ragazza malata, Polly, aveva una tubercolosi all'ultimo stadio e prendeva 40 grani di morfina al giorno. 4 delle sue compagne erano molto magre e sembravano anch'esse tisiche. Una delle altre 2 si chiamava Peggy. Era una donna alta e corpulenta, con i capelli neri diritti, la mascella forte e occhi scuri profondamente infossati. L'ultima era una ragazza 20enne, piuttosto robusta, affetta da gozzo. Raccolsi il campione di saliva ed Ellen mi disse: «Vuoi venire domenica sera? Facciamo una festa». «Che tipo di festa?» «Sono io che do una festa», disse Peggy. «Sono orgogliosa di annunciare che sono diventata padre». «Pensi che stia scherzando?» disse la ragazza malata. «Ma lo è diventata davvero». «Sono intelligente», dissi loro. «Vi ascolto, raccontatemi tutto». «Io non posso, ma lo farà Slim». Un uomo, alto e magro, sulla trentina, con un'aria da tossicomane, abbandonò il divano su cui era sdraiato e venne sbadigliando verso di noi. «Che cosa volete adesso, ragazze? Avete una sigaretta?» «No, non ne ho voglia. Avete dell'erba?» Aspirò volutamente il fumo dallo spinello e cominciò a riacquistare lucidità. «Slim», disse la malata, «di a questa ragazza del policlinico perché facciamo una festa e spiegale come ha fatto Peggy a diventare il padre del bambino di Beatrice Fairfax». Slim era un medico e anche bravo prima di darsi alla droga. «C'è rimasto del gin?» «No». «Qualcuno ha dei soldi?» «Hai mezzo dollaro, sorella, vorremmo comprare una bottiglia». Diedi il denaro a una delle ragazze e l'investimento diede buoni frutti. Seppi che il gruppo era continuamente molestato dalla polizia e che era dedito a ogni sorta di pratica, compreso lo scambio dei partner. Un quarto di gin e 3 sigarette di marijuana fecero di Slim un grande medico. «Tu comprenderai, mia cara signora, che la storia che mi appresto a raccontarti non è insolita», disse. «I veterinari sanno bene che si può ingravidare una vacca anche senza la presenza del toro. La fecondazione in provetta è stata usata per anni dagli allevatori. Ne consegue che non è del tutto infondata l'ipotesi che una lesbica possa ingravidare un'altra lesbica. Ho appena finito di scrivere tutta la storia. ma non ho ancora deciso se mandarla a The Ladies Home Journal, al Christian Science Monitor o a The New Era. Con il tuo permesso te la sottopongo, ben conscio del fatto che se la mia fatica ti sarà parsa degna, ci comprerai un'altra bottiglia del liquido che ci aiuta a vedere il mondo come non è. Detto fatto, inizio la lettura. La porta della casa di Slim si apre alle strane donne del North Side e all'intrico delle loro storie amorose. L'accomodante Slim offrì loro da mangiare, da bere, consigli, comprensione e un letto, con o senza servizi personali. Naturalmente lo scantinato in La Salle Street non era una casa ideale e quello tra Goethe e Dermot Street emanava un fetore simile a quello che proviene dalla gabbia delle scimmie dello zoo del Lincoln Park in una mattina nebbiosa. Ma sebbene il posto puzzasse come l'alito maleodorante di un ippopotamo e Molly, la gatta di famiglia, emanasse riflessi nell'atmosfera quando usava una cantina dall'altra parte della strada come sgravatoio e nursery per i suoi cuccioli, la generosità e la vena filosofica di Slim attiravano le ragazze. Slim era un medico, uno scrittore, un attore, un uomo che si riconosceva pieno d'ingegno. La sua maturazione era stata lunga ed egli aveva acquisito la sua mentalità generosa e aperta nel corso di una lunga serie di matrimoni e storie acchiappate al volo. Slim aveva sposato Jessie, la guardarobiera di uno spettacolo di rivista, e subito dopo si era innamorato di Patsy, la puledrina che conduceva la prima fila. Quando Patsy aveva minacciato di tornare a fare la trapezista, Slim le aveva offerto il cuore e aveva tentato il suicidio tagliandosi i polsi davanti alla porta della sua camera da letto, in un estremo sacrificio per trattenerla a terra. Ma Patsy aveva preferito volare. Allora Slim era tornato da Jessie, si era unito alla gente di un Luna Park, si era innamorato parzialmente di Goldie, che faceva la finta statua di bronzo. Si era offerto di sposarla per troncare la relazione tra lei e Polly, la danzatrice orientale, e aveva finito la sua carriera di artista del Luna Park a Gary, nell'Indiana, seduto sul letto di Toots, l'illusionista, confessando con il cuore spezzato che Goldie era lesbica e ancora innamorata di Polly. Una sera dopo cena, una settimana più tardi, Slim aveva aperto la porta dell'appartamento di Peggy e Peggy in lacrime gli aveva detto che la sua amante Beatrice Fairfax doveva esserle stata infedele perché era incinta. Slim aveva preso la palla al balzo e aveva fornito una spiegazione biologica che aveva convinto Peggy di essere lei stessa il padre del bambino. Secondo Slim era possibile che Peggy, essendo una professionista, avesse ricevuto il plasma vitale attuando una modifica della tecnica ortodossa ed era ugualmente possibile che avesse involontariamente ritenuto un residuo del contatto con il maschio e l'avesse trasmesso a Beatrice. Mi consegnò lo scritto e disse: «Peggy, ce l'hai davanti agli occhi. Hai mai visto un uomo così onorato e orgoglioso? Negli archivi medici si conserva memoria di fenomeni che risalgano alle epoche più remote, ma negli annali della stazione di polizia della East Chicago Avenue questo è il primo caso ufficialmente registrato. Quando Beatrice Fairfax e il suo bambino torneranno dall'ospedale domenica, faremo una gran festa e Peggy sta già preparando la roba per la pipa. Come al solito, Peggy continuerà a mantenere Beatrice, ha avuto dozzine di amanti, tutte lesbiche, e le ha sempre mantenute. Ci onorerai con la tua presenza domenica sera?» Mi sentii improvvisamente molto stanca, perché scossi la testa e dissi: «Volevo imparare tutto sulla vita, in particolare tutto sui bassi fondi, ma credo che ad alcune cose dovrò rinunciare per il momento. No, non ci sarò domenica sera». In ospedale mi capitò spesso di incontrare alcune delle ragazze e molti dei protettori che avevo conosciuto al Globe. Continuai a lavorare in laboratorio fino al giorno prima del parto. Indossavo sempre un vestito molto grande, ampio, e il mio stato non si notava. Ero così presa dall'attività del laboratorio che ricordavo appena di essere in procinto di dare alla luce un bambino. Ma il 26 luglio un dolore lancinante alla pancia me lo rammentò. Chiamai il dottor Bacon. «Credo di avere le doglie», dissi. Mi fece ricoverare in una stanza con 4 letti, mentre mi lavavano e mi preparavano. Fui improvvisamente cosciente delle mie responsabilità. Non avevo neppure un corredino. Dove avrei portato il bambino? La mamma mi aveva detto di farle sapere quando fosse giunto il momento perché voleva essermi vicino, ma io non le avevo comunicato niente. Presa dal lavoro, avevo dimenticato di fare progetti. 24 ore dopo fui portata in sala travaglio, dove i medici e le infermiere mi apparvero inaspettatamente vestiti di bianco. Tutti avevano la bocca coperta da una striscia di garza. «Ora, Berta, ti daremo un po' di anestetico», disse una dottoressa accingendosi ad applicarmi la maschera. «Perché?» domandai. «Per non farti sentire dolore. Portatelo via». Mi udii replicare con violenza: «Perché non dovrei sentire dolore? Che diritto avete di risparmiarmi il dolore che la natura mi dà? Voglio sapere che cosa si prova ad avere un bambino. Voglio soffrire quel che bisogna soffrire. Voglio essere sveglia. Ho visto impiccare il mio uomo. Ora voglio veder nascere il mio bambino». Con gentilezza il dottor Bacon disse: «Va bene, ora respira profondamente». Gli spasimi di dolore si fecero più frequenti e più violenti, ma in realtà ciò che provavo non era dolore. Mi sembrava di essere seduta su un vulcano che cercava di eruttare. «Respira profondamente, sta avvenendo», mi dissero. «Sollevatemi la testa in modo che possa vedere. È un maschio?» domandai. «Non lo so». La voce del dottor Bacon veniva da lontano. «Finora è uscita soltanto la testa». Mi rilassai per un secondo. «Ora respira profondamente e spingi. È un maschio?» «Non lo so, è uscita soltanto la spalla destra. Ora spingi, respira molto profondamente, così va bene. Ora sono uscite tutte e due le spalle. È un maschio?» «Dai, Berta, ancora uno sforzo. Spingi e ecco, viene. È un maschio? È una femmina?» «Adesso potete farmi dormire». 2 giorni dopo, uno degli interni si piazzò attaccanto al mio letto con carta e matita. «Ho bisogno di qualche informazione», mi disse. «Devo compilare il certificato della bambina. Qual è il nome del padre?» «Che cosa avete detto?» «Vogliamo sapere il nome, l'età e la nazionalità del padre. Chi è?» «La bambina non ha padre. Io sono sua madre e anche suo padre». «Ma la bambina deve avere un padre. Dobbiamo scrivere un nome. Certamente lo sapete. Avete l'aria di una ragazza rispettabile. Il dottor Maximilian Herzog mi dice che siete una brava assistente di laboratorio e che avete un futuro in campo medico. Chi pensate che sia il padre?» «Il padre sono 15.000 uomini», sbottai disperata. 15.000 uomini soli, ma se proprio dovete indicare un nome, scrivete Bigotto». «Otto che cosa?» «Soltanto Bigotto. Da 40 anni, nato a New York, morto impiccato, e mi raccomando di scrivere impiccato come causa della morte». «Come volete chiamare la bambina?» «Non lo so ancora. Per il momento chiamatela semplicemente Baby Dear. Tutti i bambini devono essere cari alle loro madri». Improvvisamente mi bloccai, spaventata dal suono della mia stessa voce. Perché avevo detto una cosa simile? Non mi era cara la bambina? Non l'avevo attesa dopo aver superato lo shock iniziale? Non ero contenta? Per la prima volta dubitai di aver mai desiderato realmente una figlia. Quando Baby Dear ebbe 7 giorni, l'infermiera venne ad annunciarmi una visita. «C'è un gruppo di uomini là fuori, vogliono vedervi», disse. C'era Jack Jones, Beardy Weber, un poeta del Dill Pickle, piccolo, tarchiato e biondo, con un gran naso, Eddie Clasby, un bostoniano con i capelli neri, membro del Seven Arts Club, un indù di nome Pandim, Harrison, un socialista di colore con le labbra grosse, Ed Amon, un organizzatore del sindacato dei pittori, infine una checca magra di nome Hazel. Clasby parlò a nome di tutti. Boxcar Berta, siamo venuti a giudicare di persona chi può essere il padre di tua figlia e siamo tutti disposti a sposarti secondo i riti della Chiesa cattolica, di quella ebraica, di quella indù e di quella del libero pensiero. Puoi avere uno qualunque di noi come marito legale, così ti piace, oppure puoi prenderci tutti quanti in gruppo a far da padre alla tua bambina. Vorremmo che tu accettassi questo fagottino di vestiti e questi fiori e vorremmo darti un bacio. Risi, li ringraziai, li baciai tutti e dissi loro che intendevo continuare ad essere il padre della mia bambina. Il dottor Herzog e il dottor Bacon vollero che restassi in ospedale altri 6 mesi. Dopo 10 giorni mi trasferì dal reparto dell'ospedale agli alloggi della servitù. E meno di 3 settimane dopo la nascita di Baby Girl, tornai al lavoro in laboratorio. Ogni paio d'ore accudivo alla bambina. Avrei voluto tenerla in laboratorio, ma il dottor Herzog disse che era pericoloso. Baby Girl era la creatura più amorevole, strana e affascinante del mondo. Aveva dei luminosissimi occhi azzurri, i capelli rossi e ricci e un corpo perfetto, con mani e piedi enormi. Pesava 3,5 kg e continuò rapidamente a crescere. Tutti l'adoravano e parecchi sarebbero stati disposti ad adottarla. Allo scadere dei 6 mesi decisi di portare Baby Girl a casa da mia madre e pensandoci decisi improvvisamente che avrebbe compiuto il suo primo viaggio sul mezzo di trasporto che la sua mamma preferiva, un vagone merci. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.